Abbiamo ascoltato Brigata Cani da Birra e vi ricordo sempre che state ascoltando Indiadi, il programma di informazione indipendente. E abbiamo parlato di quello che succede a Pianolago in provincia di Cosenza, molto vicina alla città Bruzia, dove soprattutto molte donne vengono licenziate con dei licenziamenti individuali che non prevedono appunto la cassa integrazione. Questo evidenzia ancora una volta come in tutta Italia in realtà la situazione lavorativa delle donne in particolare è sempre più precaria, sempre più minata da questi provvedimenti di varia natura, che comunque mirano a ridurre il numero di lavoratrici presenti sul nostro territorio. E non a caso c'è chi riflette su questi argomenti e infatti il 19 gennaio prossimo ci sarà a Carrara un'iniziativa promossa dall'USI su donne e precariato. Si analizzeranno dunque le fasi storiche del lavoro femminile soprattutto nella provincia di Massa Carrara, si parlerà anche delle ripercussioni socio-psicologiche della condizione di precarietà femminile. Si sarebbe dovuto parlare anche di precariato del mondo della scuola, ma questo appuntamento verrà rimandato ai noi, e ci saranno poi varie testimonianze di lavoratrici che rifletteranno su passato e presente. E infine ci sarà anche una riflessione sull'esperienza alternativa della scuola libertaria, una bellissima iniziativa dunque che speriamo abbia seguito. Perché c'è veramente tanto bisogno di riflettere sulla situazione lavorativa in generale in Italia, ma la condizione femminile, come riflettevamo prima per quanto riguarda i licenziamenti di Pianolago, ci dimostra che le donne sono sempre più escluse dal lavoro in Italia. Certo, una società come quella italiana, fondata sul patriarcato, che vede nel lavoro femminile un di più, perché le donne devono rimanere magari a casa ad accudire i figli, è certamente una situazione da ribaltare. Quindi le analisi sono sempre necessarie, oltre ovviamente a una prassi politica che riuscirà magari a incidere su questo stato di cose. Ora io direi di ascoltare ancora un po' di musica e infine parleremo ancora di lotto operaie come ultima notizia. Vedremo che cosa accade in Fiat, giusto per cambiare. La Fiat che è sempre, no, nei nostri cuori. Bene, adesso ascoltiamo questa bella versione di Tu fa l'americano. A voi l'ascolto. Tu fa l'americano, americano, americano. Senta me che tu fa papadura. Vivere alla moda, ma se vedi wish can soda, forse senti giusto papà parura, tu a ballo rock and roll, tu a gioca a baseball, ma i soldi pecca me, chi te li dà, ma scelta prima ma tu vuoi fare americano, americano, americano, ma se nato in Italia, senti a me non c'è sta niente a fa, ok Napoletà, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Ed eccoci qua nuovamente su fuori onda radio, state ascoltando Indie Radio, il programma di informazione indipendente. Bene, ci dicono che la musica si sente bene, lo speaker è un po' basso, cerchiamo un po' di vedere, insomma, di risolvere il problema. Come chi ascolta le mie trasmissioni sa bene che non esistono trasmissioni senza problemi tecnici, ma speriamo bene di risolverli. Ma ora l'ultima notizia e poi partiremo con la rubrica Figli di. Dunque, questa ultima notizia è un comunicato sempre dell'USI che parla di questa lotta operaia per la difesa di un lavoratore che ancora una volta vede i suoi diritti negati. Dunque, che cosa succede? Questo comunicato è in realtà del gruppo di operai Fiat CNH di Modena che si riuniscono nella sede dell'USI di via del Tirassegno 7 circa appunto la vicenda del licenziamento di Francesco Ficiarrà, che è stata seguita in tutte le sue fasi dalla locale sezione USI. Ricordiamo i passi precedenti. Alla Fiat si applica il metodo Marchionne delle ritorsioni. Già da tempo in fabbrica è sempre esistita un'opposizione degli operai all'aumento dello sfruttamento. È risaputo Francesco Ficiarrà, operaio saldatore Fiat di Modena. Scusate, c'è un piccolo problema tecnico. Ah, ma come sono belli i problemi tecnici, senza di essi noi non vivremmo. Eccoci qua. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Indie Radio, il programma di informazione indipendente. E stiamo parlando di Francesco Ficiarrà, che è questo operaio saldatore della Fiat di Modena, che da 18 anni è in forza in fabbrica ed è uno dei promotori di questa forza di opposizione e lotta. Francesco quindi viene licenziato con effetto immediato il 28 ottobre 2011 con lettera consegnata a mano dal caporeparto alle ore 16.45. La motivazione provocatoria della direzione Fiat è che avrebbe apostrofato con dure contestazioni il direttore risorse umane Michelangelo Barrile nell'ufficio di reparto con rivendicazioni riguardanti la sicurezza degli operai del reparto e nello stabilimento. Francesco è stato così estromesso dalla fabbrica in un venerdì di ponte a fabbrica ferma. Tre giorni dopo, Francesco insieme ad altri operai e compagni solidali è davanti alla sua fabbrica ad informare del grave accadimento. Il silenzio che la Fiat voleva creare intorno a questa manovra si rompe. Come sempre, insieme al silenzio si accompagnano menzogne variopinte. Vengono diradate con l'impegno incessante di questo operaio con alcuni colleghi e compagni davanti alla Fiat CNH. Il 21 gennaio 2012 si svolge dunque il processo d'urgenza per la reintegra immediata dell'operaio e Francesco viene reintegrato dal giudice con relativa ordinanza. I sindacati, Cobas compresi, ancora non riescono a prendere nessuna posizione ufficiale, nonostante dal giorno che si sa in fabbrica del fatto, cioè il 3 novembre 2011, sono diverse le proteste degli operai su questo silenzio imposto dall'alto. Solo un delegato e un esperto FIO si presentano al processo. La Fiat nel febbraio 2012 infine esonera l'operai alla prestazione di lavorative. Non lo vuole in fabbrica, è pericoloso e contagioso per i padroni e ricorre nel buio degli uffici legali al Tribunale del Lavoro Ordinario. I tentativi di tornare dentro in forza dell'ordinanza sono stati respinti dalla direzione nei mesi estivi, fermando l'operaio all'entrata sul posto di lavoro. Ora, il 24 gennaio 2013, al Tribunale del Lavoro di Modena, in via Cesare Costa 13 alle ore 12, si svolgerà questo secondo processo. Testimoni di Francesco saranno diversi operai del suo reparto, delegati FIOM, eccetera, ma è necessaria la presenza, la solidarietà militante di tutti gli operai. Francesco ha sempre combattuto per gli interessi operai immediati e complessivi. Giusto e necessario fare la reintegra di questo operaio con un'opera collettiva. Dovremmo quindi materializzare anche nelle aule del processo, terreno non deciso da noi ma dall'avversario di classe, la nostra concreta ed effettiva resistenza operaio. La boria del padrone però può essere scalfita e piegata se gli operai si organizzano per ricacciarla indietro. Sappiamo quali sono i metodi moderni alla Marchionne, dunque. Si tratta di rispondere con la stessa determinazione e organizzazione. L'alternativa, come tutti gli operai in fondo sanno, anche i più arretrati, a una schiavitù e a uno sfruttamento ancora più opprimente. Vinceremo questa battaglia se saremo quanto più uniti, ma soprattutto se faremo di questa unità una forza di mobilitazione a tutti i livelli degli operai contro questi licenziamenti discriminatori. licenziamenti che aiutano solo la parte parassitaria dei padroni a sfruttarci di più e meglio nei capannoni, licenziamenti intentati dal padrone Fiat, ma fatti ingoiare dai sindacati complici per applicare la linea del lavoro forzato e del silenzio agli operai nella fase attuale di crisi del sistema capitalista. Chi non è complice dello sfruttamento e dell'oppressione padronale non può mancare il 19 gennaio 2013 alle ore 17 a Libera Officina, via del Tirassegno 7 Modena, per riunione operaia contro i licenziamenti discriminatori. Nessun dorma il 24 gennaio 2013 alle ore 12, tutti davanti al Tribunale del Lavoro per far sentire forte la protesta con le nostre idee e con le nostre bandiere a Modena, via Cesare Costa 13, per il reintegro dell'operaio saldatore contro Fiat e i suoi lacchè. E questo comunicato, che potete leggere sul sito ufficiale dell'USI, è firmato da gruppo di operai Fiat CNH di Modena. Quindi ancora una volta storie di lavoro negato, ancora una volta storie di sfruttamento, ma anche di resistenza. Quindi speriamo bene anche per il futuro di questo lavoratore e per il futuro di tutti i lavoratori Fiat, che sono sempre più sfruttati in questo paese che attraverso l'emergenza, attraverso la crisi, sta distruggendo tutti i diritti e vuole semplicemente un lavoro di stampo schiavista. Ma ora diciamo che era questa l'ultima notizia di Indie Radio, e a breve partiremo con la nostra rubrica Figli di, che questa sera sarà un po' ridotta, magari, non so, ma proprio perché fa un sacco di freddo oggi anche qui all'aula occupata P2, da dove stiamo trasmettendo in diretta su Fuori Onda Radio, ascoltiamo un bellissimo pezzo dei Diaframma, uno dei primi, dei più famosi anche, e che è appunto intitolato Siberia. Buon ascolto sempre su Fuori Onda Radio, questa è Indie Radio. Thank you. Eccoci qua, finalmente abbiamo finalmente, perché